La parola di Dio, la Bibbia, è stata scritta per dare ai credenti un'unica testimonianza e un'unica fede. Da secoli i cristiani testimoniano che vi è una sola parola di Dio, una sola Bibbia, cioè una sola raccolta di libri. Eppure a volte viene fatto notare che nelle Bibbie protestanti non vi è l'imprimatur del cattolicesimo. In che cosa consiste questo imprimatur? Perché la religione cattolica deve mettere l'imprimatur sulle loro Bibbie per distinguerle da quelle protestanti? Hanno un'altra parola di Dio? Sono due Bibbie diverse? Sì e no. La Bibbia cattolica e quella protestante sono uguali perché sono la parola di Dio. Sono diverse perché nelle Bibbie cattoliche vi sono libri che non si trovano nelle Bibbie protestanti. Da quasi 500 anni, cattolici e protestanti si trovano in conflitto per determinare quale Bibbia sia la vera e sola parola di Dio, per cui non possiamo ignorare tale conflitto. Tale scontro non è dovuto propriamente ad una diversa traduzione, anche se le traduzioni a volte sono vistosamente diverse, ma perché le Bibbie cattoliche hanno inserito altri libri che sono chiamati apocrifi. Per questo, mentre la Bibbia dei protestanti contiene 69 libri, quella cattolica romana ne contiene 74. Ma cosa sono questi libri apocrifi? Da dove derivano? Perché tanto conflitto da creare a volte una ragione di divisione in seno a coloro che hanno il timor di Dio? Prendiamo in esame tale problematiche. Il termine apocrifo deriva da una parola greca che significa nascosto. Questo termine è stato impiegato per un certo numero di scritti dell'Antico Testamento, 14 o 15, considerati inaffidabili per la loro origine incerta e il loro valore. Essi furono composti nel corso degli ultimi due secoli a Pantici II e nel primo secolo successivo. Dal Concilio di Trento, 1545-1563, la religione cattolica romana considera alcuni di questi libri ispirati come gli altri libri dell'Antico Testamento. Si tratta, in particolare, dei libri di Tobia, Giuditta, Sapienza di Salomone, Ecclesiastico, Baruch 1 e 2, Maccabei e alcune aggiunte ai libri di Ester e di Daniele. Il nostro principale problema è quello di stabilire se queste aggiunte, contenute nelle Bibbie di edizione cattolica, devono essere considerate come scrittura, cioè come parola di Dio. Da notare che è in discussione un testo pari per lunghezza a due terzi del Nuovo Testamento. Nella nostra ricerca vedremo se i libri apocrifi hanno il diritto di far parte del canone dell'Antico Testamento. La parola canone deriva dalla parola greca canon, che significa elenco stabilito, misura, regola o norma che possiede autorità. I libri canonici sono quindi tutti quei libri ispirati da Dio che costituiscono la regola di fede e di condotta per un cristiano. Ecco alcune delle ragioni per le quali i protestanti rifiutano di accettare i libri apocrifi come ispirati da Dio. 1. I libri apocrifi non sono da ritenere parola di Dio perché non vi sono segni che ne attestino l'origine divina. La parola di Dio, per essere tale, non deve contenere errori di nessun genere, poiché nessun risultato della scienza, dell'archeologia, della fisica, della geologia o dell'astronomia si trova a essere in contraddizione con la Bibbia, essa è da ritenere ispirata da Dio. I libri apocrifi, invece, come Tobia e Giuditta, contengono errori storici, cronologici e geografici. Questi libri giustificano la falsità e l'inganno e fanno dipendere la salvezza dalle opere meritorie. Nel libro di Tobia, per esempio, si sostiene che il far le elemosine salvi dalla morte, 4:10, 12, 9. Il libro della Sapienza insegna che la creazione del mondo venne fatta a partire dalla materia preesistente, 11:17. In Baruch è detto che Dio ascolta le preghiere dei morti, 3:4. In 1 Maccabei sono contenuti errori storici e geografici. Inoltre, mentre gli autori ispirati da Dio affermano centinaia di volte «Così parla l'Eterno» o «Ascoltate la parola che l'Eterno vi rivolge», gli autori dei libri apocrifi riconoscono che non sono ispirati da Dio. Ecco come conclude l'autore dei libri dei Maccabei. Se la disposizione dei fatti è riuscita scritta bene e ben composta, era quello che volevo. Se invece è riuscita di poco valore e mediocre, questo solo ho potuto fare. 2 Maccabei 15 e 38. Così leggiamo nell'introduzione dell'Ecclesiastico. Siete invitati perciò a farne la lettura con benevolenza e attenzione, e ad avere indulgenza per quelle cose in cui sembrerà che non siamo riusciti a rendere con esattezza espressioni difficili. È già di per sé difficile accettare che sia ispirato da Dio colui che dice di esserlo. Se poi uno afferma di non essere ispirato da Dio, tanto più bisogna accettare la sua testimonianza. 2. I libri apocrifi non sono da ritenere parola di Dio, perché il canone ebraico li esclude. Tutti i giudei accettavano come parola di Dio soltanto 24 libri, corrispondenti ai 39 libri accettati dai protestanti. Questo era il canone ebraico al tempo di Cristo e da lui accettato. Era il canone della Chiesa cristiana e dei padri della Chiesa. Il più antico elenco di libri canonici dell'Antico Testamento ora disponibile è quello di Melitone, vescovo di Sardi. Esso è datato intorno al 170 d.C. Il suo canone non contiene nessun libro apocrifo. I primi padri della Chiesa seguivano quindi strettamente il canone ebraico. A prova di questo fatto, abbiamo la testimonianza sia dello storico Giuseppe Flavio che di Filone di Alessandria, vissuto nel primo secolo avanti Cristo, il quale, pur citando frequentemente i libri sacri del canone palestinese, non cita mai uno scritto apocrifo. Origene, che morì nel 254, riporta la lista dei libri di Giuseppe Flavio, che corrisponde a quella del testo masoretico. 3. I libri apocrifi non sono da ritenere parola di Dio per il periodo profetico. I depositari della legge sono i giudei, le autorità giudaiche richiedevano una condizione fondamentale per la canonicità dei libri, dovevano essere stati scritti in quello che essi consideravano il periodo profetico, cioè tra il periodo di Mosè e quello di Artaserse, 400 anni prima di Cristo. Questo escluderebbe automaticamente i libri apocrifi che furono scritti nel corso degli ultimi secoli avanti Cristo e nel primo secolo successivo. Lo storico ebreo Giuseppe Flavio, dopo aver riconosciuto questo periodo profetico, aggiunge: «È vero che dal tempo di Artaserse la nostra storia è stata scritta in modo particolare, ma non è stata considerata dai nostri antenati di ugual valore della precedente, perché non vi è stata da quel tempo un'esatta successione di profeti. Il canone ebraico, quindi, composto di 24 libri, era considerato chiuso alla fine dell'era profetica, che è data intorno al 400 avanti Cristo. Da quel periodo nessun materiale aggiunto è stato incluso nei libri canonici. Erano questi gli unici libri che i giudei consideravano come parola di Dio e per i quali sarebbero morti piuttosto che aggiungere o togliere loro qualcosa. 4. I libri apocrifi non sono da ritenere parola di Dio perché non sono citati nel Nuovo Testamento. Lasciamo alla sola Bibbia il compito di definire la canonicità di il Nuovo Testamento. Contiene centinaia di citazioni dell'Antico Testamento. Dal modo in cui Gesù e gli Apostoli citano le Scritture, risulta evidente che essi accettavano l'Antico Testamento nella sua totalità come un'autorità normativa, come vera parola di Dio. Questa era composta per i giudei di 24 libri divisi in 3 grandi gruppi: la legge, i profeti e i salmi. Luca mezzanotte 44. I libri apocrifi ne erano dunque esclusi. Nonostante i vari riferimenti all'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento non vi è una sola citazione di essi. Senza dubbio, Gesù e gli scrittori neotestamentari conoscevano l'esistenza di questi libri. Tuttavia, non troviamo un solo caso in cui uno di essi sia citato come scrittura ispirata, né come avente autorità. Se vi è stata controversia tra Cristo e i farisei, non era dovuta all'autorità dell'Antico Testamento, ma che i farisei avevano aggiunto a quell'autorità la loro tradizione. Anche se alcuni studiosi cattolici affermano che vi sono riferimenti a essi, ciò non comporta che gli scrittori li ritenessero ispirati. Anche Paolo, in 1 Corinzi 15 e 33, trae una citazione dalla Commedia Thais di Menandro, Ciò non dimostra che egli ritenesse quest'opera ispirata da Dio. 5. I libri apocrifi non sono da ritenere parola di Dio perché i padri della prima Chiesa non li citavano come parola di Dio. È vero che i primi padri della Chiesa citavano gli apocrifi nei loro scritti, ma non davano a essi la stessa autorità della parola di Dio. Gerolamo accettava solo i libri del canone ebraico. Egli riconosceva gli apocrifi semplicemente come libri di valore ecclesiastico, cioè destinati alla lettura. Quando Atanasio, morto nel 365, elenca i libri dell'Antico Testamento, cita solo i libri contenuti nelle edizioni protestanti. Agostino, nello scrivere attorno al libro di Giuditta, riconosce che esso non si trovava nel canone degli ebrei. È quindi più corretto affermare che solo alcuni dei padri della Chiesa sembrano a favore degli apocrifi, mentre altri hanno avuto un chiaro atteggiamento contrario alla loro canonicità. 6. I libri apocrifi non sono da ritenere parola di Dio per la discordanza da parte dei codici. Il codice Vaticano B manca dei due libri dei Maccabei che, secondo Roma, sono ritenuti canonici, mentre include l'uno di Esdra che non riconosce canonico. Il codice sinaitico Aleph omette il libro di Baruch, mentre il codice alessandrino A contiene tre libri non canonici, 1 Esdra, 3 e 4 Maccabei. Ne deriva quindi che i nostri più importanti antichi manoscritti degli LXX mostrano una considerevole incertezza per quanto riguarda la lista dei libri apocrifi e che i 14 libri, o parte di esso, che la religione cattolica accoglie, non sono affatto sostenuti dalla testimonianza dei grandi onciali del IV e del V secolo. Perché allora troviamo i libri apocrifi in certe Bibbie? Il tutto risale circa al 250 a.C., quando Tolomeo Filadelfo avrebbe incaricato 72 eruditi ebrei di tradurre in greco i libri che avevano gli ebrei. Questi, oltre che tradurre i 24 libri ispirati da Dio, la versione dei 70, di LXX, tradussero anche gli apocrifi. Nel IV secolo d.C., Gerolamo tradusse tutti questi scritti in latino, Vulgata, affermando però la loro estraneità rispetto alle scritture. Ma la religione cattolica romana nel 1564 proclamò lo stesso canonici quasi tutti gli apocrifi contenuti nella versione LXX e nella Vulgata. Il protestantesimo invece non riconosce agli apocrifi l'ispirazione che caratterizza i libri canonici, ma ammette che sono utili e buoni da leggere. I libri apocrifi, sottoposti a un serio esame, si condannano da soli. Con questo non si vuole togliere il valore e l'utilità dei libri apocrifi. Anche se non si possono considerare scrittura, il loro valore storico ne impone la preservazione. Ma la loro esclusione dal canone, cioè da ciò che costituisce una regola di fede e di condotta, e quindi anche dal Nuovo Testamento, non è arbitraria. Anzi, possiamo affermare che i libri apocrifi si sono esclusi da soli. Queste riflessioni non sono fine a se stessi, non hanno lo scopo di discreditare i libri apocrifi, ma di ricordarti che la parola di Dio ha per te un valore eterno. Non serve apprezzare la parola di Dio, essere attratti dal suo messaggio, se essa non ha l'autorità di cambiare la tua vita per conformarla al volere di Dio. Ho visto un programma in televisione nel quale alle persone venivano poste delle domande sulla Bibbia. Ad una donna fu chiesto che cosa significava per lei la parola di Dio ed essa rispose: «Io non permetterò mai alla Bibbia di interferire nella mia vita». Ed è proprio ciò che Dio vuole fare. Dio si presenta nella sua parola come il padrone del creato e di ogni creatura umana. Mentre per il creato Dio è sovrano, per la sua creatura aspetta da essa di essere accettato come il padrone e salvatore. Se gli uomini non avessero avuto bisogno di un salvatore, Cristo non sarebbe morto in croce. Se gli uomini fossero tutti salvati, Cristo non avrebbe parlato di perdizione. Se tu conoscessi già tutto, Cristo non avrebbe ordinato di predicare l'Evangelo. Se l'Evangelo fosse stato accettato dal mondo, non ci sarebbe tanta ingiustizia e dolore. Se tu potessi fare meno di Cristo, non ti direi ciò che ti sto dicendo. Credi alla parola di Dio, vivi secondo i suoi insegnamenti, accetta l'autorità di Cristo nella tua vita quale è espressa nella Bibbia, la parola di Dio, e per te i libri apocrifi avranno il valore che dovranno avere, sono un mezzo per condurti a Cristo. Se essi non producono in te tale desiderio, a nulla vale il loro messaggio. Rino Fisichella, per anni docente presso la Pontificia Università Gregoriana, li liquida dicendo che non possono avanzare alcuna pretesa di narrazioni attendibili, mentre il gesuita Karl Rahner, uno dei più ascoltati teologi del Novecento, li descrive come contenuti fantastici, ignota provenienza e autori eretici. L.A. Bibbia, i Vangeli, Oscar Mondadori, pag. 305-306. Giugno 2004, Ellero.